Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera voglio raccontarvi di due iniziative che vengono dal mondo del packaging. In Italia si ricicla circa il 65% degli imballaggi che vengono utilizzati, ma ancora quindi un terzo più o meno finiscono bruciati o in discarica. Parliamo di qualcosa come 4 milioni di tonnellate di roba, più o meno è il peso di tutti gli italiani messi insieme sullo stesso piatto della bilancia. Il livello di riciclo naturalmente può crescere, dato che in alcune regioni del paese, in alcune città, il livello della raccolta differenziata, come è ben noto, è ancora piuttosto scarso. Ma in realtà, anche superato quel gap, scopriremmo che il 100% di raccolta differenziata è molto lontano. Alcuni tipi di imballaggi, infatti, vengono compromessi durante l'uso. Pensiamo banalmente al cartone della pizza, mentre altri sono troppo complessi o troppo scomodi da riciclare nella maggior parte dei casi. Pensate al Tetra Pak, che è diffusissimo. In questi casi o si cambia imballaggio oppure bisogna inventarsi qualche metodo nuovo per riciclarlo. Tra i rifiuti di questo tipo ce n'è uno di cui forse non si sentiva il bisogno, ma che di fatto da qualche anno è presente in massa nella spazzatura di tantissimi italiani, e sto parlando delle capsule esauste del caffè. Pensate che in Italia se ne consumano 1 miliardo circa all'anno, il 10% della produzione mondiale. Tra i produttori che si stanno attrezzando per riciclare queste capsule c'è Illy, che ha appena avviato un progetto di cui voglio parlarvi con l'aiuto di Alberto Baesso, General Manager di Eurven, che è un'azienda che è specializzata in soluzioni tecnologiche per il riciclo e ha messo a punto un sistema per riciclare le capsule del caffè Illy. Buonasera Baesso. Buonasera a voi e grazie per l'opportunità che mi date. Dunque, come funziona questo sistema per riciclare le capsule del caffè? Perché siamo nella classica situazione in cui contenuto e imballaggio sono tenuti insieme, vanno smontate. È esattamente così. Ci hanno chiesto l'idea e il progetto per realizzare una macchina che sia in grado non solo di raccogliere questi prodotti, di cui fa parte anche il contenitore, cioè il bussolotto, dove all'interno ci sono le capsule, quindi raccogliere sia capsule che bussolotto. Poi, dopodiché, vogliono separare il caffè dalla plastica, che è riciclabile. La macchina raccoglie la capsula, la taglia nettamente e, attraverso un sistema di vibrazione, trasporta il caffè in un contenitore, il caffè esausto, e la plastica dall'altro contenitore, mentre il contenitore di latta, cioè il bussolotto che contiene le capsule, viene solo ridotto di volume pressandolo. E quindi avremo che il caffè finisce a qualche altro trattamento, come comunque rifiuto umido, diciamo, la plastica e il metallo vengono completamente recuperati. Immediatamente riciclati. Ecco, senta, il modello invece di raccolta delle capsule, le chiedo, come funziona? Se fate questa operazione di riciclare le capsule, noi o l'azienda vi darà un premio, un bonus da spendere in un nuovo prodotto. Quindi sostanzialmente chi consuma queste capsule va al negozio dove le compra abitualmente, gli restituisce le capsule esauste e riceve un bono per comprarne di nuove. Questo di nuove, sostanzialmente. Quando prima non lo riceveva, cioè pagava il prezzo pieno. Hanno tutti e due un vantaggio, un beneficio. Sì, e poi comunque è un modello già sperimentato, per esempio, magari poco in Italia, ma già sperimentato con altri imballaggi in Nord Europa. Va bene, grazie Baesso. Grazie a voi. Passiamo al secondo caso di cui voglio raccontarvi questa sera e quindi al secondo ospite. Giovanni Luca Arici, amministratore delegato di Rotoprint. Buonasera Arici. Buonasera a tutti. Rotoprint è una piccola azienda, 17 dipendenti, che è appena stata premiata negli Stati Uniti d'America con il premio alla sostenibilità da parte della FPA, Flexible Packaging Association, quindi l'associazione del packaging flessibile. Ecco dunque Arici, voi sovrastampate gli imballi, ci spiega? Esattamente, la sovrastampa consiste nel modificare imballaggi che prima che vengano utilizzati presentano qualche errore di stampa o qualche dicitura che deve essere necessariamente cambiata, magari per un adeguamento alle normative. L'esempio tipico potrebbe essere l'ingrediente piuttosto che il prezzo o la ragione sociale che può cambiare, perché magari è stato cambiato appunto la sede di confezionamento, eccetera. Ecco, in questi casi un'azienda che magari si era fatta produrre grandi quantitativi di imballaggi per confezionare i propri prodotti cambia sede e dovrebbe buttare via tutto, invece lì intervenite voi. Questo è proprio il nostro scopo. Noi praticamente nasciamo per modificare imballaggi che non possono più essere utilizzati, nonostante siano nuovi, semplicemente perché sono ormai obsoleti nei testi o nella grafica. Quindi, insomma, voi evitate che tutti questi imballaggi vengano buttati via, dandogli sostanzialmente una seconda vita. Ci fa qualche esempio dei casi in cui intervenite? Abbiamo detto il cambio di sede o magari, come dire, un ingrediente in più che la normativa prevede che debba essere segnalato. Ci saranno situazioni anche stranissime, invece, immagino. Pari, capita un po' di tutto a noi, come puoi immaginare. Il caso che mi piace sempre raccontare, perché è molto particolare, è di un'azienda che produce patatine e che ha un incarto in casa di patatine classiche, e in quel momento aveva bisogno di confezionare le patatine grigliate, allora si è rivolta a noi per cercare una soluzione. Noi abbiamo proposto a questa azienda di sovrastampare sulla patatina grafica, quindi sul fotocolor della patatina grafica, una sorta di grigliatura con una mezza tinta che rendesse la patatina grigliata e non più classica. Avete ritoccato la patatina, diciamo. Tra parentesi, detto così, si presta a dei doppi sensi terrificanti. Comunque, lasciamo perdere. Gliene faccio un'altra allora guarda. Sì, sì, prego. L'esempio di una società che produce cioccolatini, che doveva, ha avuto un ordine ovviamente per dei boeri, non avendo in casa l'incarto, ha dato a noi un incarto di cioccolato finissimo, normale, classico. Noi abbiamo inserito delle figure delle ciliegie, abbiamo inserito le diciture dei boeri con tutte le diciture di legge necessarie, e loro hanno utilizzato questo incarto per la vendita dei boeri e non più del cioccolato al latte finissimo. Quanti imballaggi sovrastampate all'anno? Noi mediamente siamo sui 18.000 chilometri di imballaggi. In quasi 40 chilometri. Anni abbiamo prodotto e sovrastampato e recuperato, soprattutto alla discarica, circa 750.000 chilometri di incarto, quindi quasi un viaggio di andata e di ritorno dalla Terra alla Luna. Perché chilometri? Perché spieghiamolo, perché di solito gli imballaggi nella gran parte dei casi si presentano sotto forma di rotoloni, per cui voi andate a metri, no? E questo è il motivo. A noi arriva di tutto. Quindi per fare una media statistica bisogna parlare necessariamente di metri, in quanto le nostre macchine, che sono delle rotative, hanno una produzione metrica. Grazie Luca Ricci. Ringrazio tutti voi, buonasera. Bene, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.